vive in un paese più di dossitico statico. Offerte senza offese, un viscido politico. Arrivato a un punto critico, stretico di noia. Ingoia ogni persona, il tuo lavoro è il boia. Uccidi senza grazia il divertimento. Impatto tremendo, mi lamento dall'infanzia. Mi richiudo nella stanza, rappresenti l'immondizia. L'avarizia ti domina, prestante la pigrizia. Il litigio violento è il premio nel paese. Chi raggiunge il 100 è il branco del mese. Intese le setese da manesche, tresche, rese banali per cause nelle controversie. Oppresse mentalità dalla vanità. Un litigio è più lungo della Parigi Dakar. Porto fastidio, sembra che sia troppo. Senza provocare un topo, me ne vado, mo scapo. Hai serva favara, scava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signore delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello. Hai serva favara, schiava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signora delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello. Non vedo una radice, tranne che matematica. Schiavi carcerari, della l'automatica. La superstizione si traveste ne compari. Compari e poi scompari con mare senza pinzeri. Non ci credi, ma è questo ciò che vivo. Schivo ogni giorno un paese oppressivo. Destino fu il cammino verso altro lido. Rapporto tenso troppo da nodo, troppo stretto. Stavo stretto, lo metto, non porti rispetto. Sei come un malato a letto, uno spettro. Senza concetto, t'aspetti che ti perdoni. Donne non regala a chi mi rompe i coglioni. Ti vedo sporco, marcio in letargo perenne. Non ci vuole una lente, guardare non si insegne. Scaffi come schiaffi, piangi non agisci. Non rischieresti a leccarti i baffi. Hai serva favara, schiava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signore delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello. Hai serva favara, schiava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signore delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello. Per non parlare del comune, del malcostume. Centro del pattume, grezzume e mangiume. Dovrebbe essere lenta a servizio della gente. Ma si svende nel vizio di una lobby carente. Ammasso di venduti con sparcete di grasso. Successo desto, ad essere disonesto. Ragionate sullo spirito della convenienza personale. Incoerenza con le idee promulgate. Promesse senza vento, viste da lontano. Ma non ci riscaldiamo in quanto non c'è metano. Sembra che ci interessiamo ma alla fine che ci importa. Tanto è colpa del sì, se ma tagliamo. Siamo in bilico, sul valico di un burrone. Un cambio di situazione, la nostra aspirazione. Altro che città dell'agnello pasquale. Fa bare la sede della merda stradale. Hai serva favara, schiava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signore delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello. Hai serva favara, schiava di dolore. Nave senza timoniere che intempesta amore. Non signora delle acque ma di bordello. Pronta a tramarti l'ennesimo tranello.